Ho avuto la sensazione nei giorni scorsi, e ne avevamo parlato anche perché la sentenza era attesa tra oggi e domani, al più tardi, insomma, ne avevamo parlato proprio, come dire, calendarizzando, no, questo appuntamento. Se stamane il giudice di Milano, che tra l'altro si chiama, adesso troveremo Claudio Marangoni. Claudio Marangoni, perfetto, avesse dato, perché in fondo quando arrivi a una sentenza è come quando arrivi a una finale, no? Vince, magari uno è favorito, però può sempre anche vincere l'altro. Non è andata così sabato, non è andata così nemmeno stamane. Se fosse andata al contrario, e cioè se avessero sospeso con decorrenza immediata quei 1.149 euro alle società di calcio italiano, io mi 1.149 milioni di euro, mi correggi giustamente. Io mi sarei immaginato una riunione di Lega in cui tutti si sedevano intorno al consueto tavolo con aria serena e rilassata, e poi qualcuno che apriva il bocchettone del gas dalle cucine e serenamente li avviava verso una fine il più dolce e il più inavvertita possibile. Le conseguenze sarebbero state, se non così tragiche, comunque molto, molto drammatiche, perché, si deve partire sempre da uno squilibrio nei ricavi delle società, italiane, squilibrio che ci dice come appunto, a differenza di altre squadre, quelle inglesi o quelle, spagnole, 2/3 dei ricavi dipendono dai diritti televisivi. Due terzi. Molti, di questi ricavi, erano stati e sono stati già messi a bilancio da molte società. Questi soldi servono a ripianare i debiti rossi e passivi che molte società hanno e servivano sia ad iscriversi al prossimo campionato con i più rigidi criteri finanziari annunciati dalla Lega, e il termine scade il 30 giugno, Sì. sia a fare la campagna acquisti.